AVS Media Demo. Sono anni che parlo, ma nessuno ascolta. Ho bussato così tante volte alla vostra porta. AVS Media Demo. E con il tempo ho perso il conto dei pugni in petto, delle notti insonni, dei mille infranti sogni. Sono anni che i miei occhi, bagnati di rugiada, hanno ormai perso la strada. Tutti parlano AVS Media Demo. Di treni e di fermate, ma affogo nel whisky centinaia di serate. Oggi so che non esistono gli eroi. Tu eri giusto amore, ma non per noi. Era bello AVS Media Demo. Non sentirsi soli in questo mondo. Ma una mattina davanti allo specchio mi sono guardato e non ero lo stesso. Lo so, amore. AVS Media Demo. Ma non possiamo più vivere in questo posto. Dobbiamo fuggire, non fingere di stare bene. Dobbiamo evadere, liberarci da questo male. AVS Media Demo. La mano, amore. Sono solo e passano le ore. Vorrei parlarti e raccontarti dei mostri che ho incontrato. Vorrei dirti quanto ti ho amato. Ma sono stanco di tutti i pregiudizi. Mi sento stretto in questi spazi, in questo mondo dove ognuno parla ma nessuno ascolta. Oh, quante volte ho bussato alla vostra porta. Sono stanco delle vostre amare risate. AVS Media Demo. Quando fuori state, sono stanco delle vostre amicizie. Di sentire non avete un lavoro, di sentirvi dire agli altri che siete migliori di loro. Sono stanco di queste sigarette, delle vostre mentalità strette. AVS Media Demo. Di questi colori, ho bisogno di girare il mondo, di vedere cosa c'è là fuori. Ero solo un bambino ed avevo tanti sogni. Oggi sono un uomo e vorrei non averli infranti. Voglio camminare solo, non avere rimpianti, non sentirmi. AVS Media Demo. Lasciatemi stare, non potete capire. Spiccherò il volo, un giorno riuscirò a vivere. Sparire.